vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silencio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando siamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada una canzone, por las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque anche per terra se accende una stella negli occhi suoi. È tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone. Por las calles las canciones. Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán y las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Esta canción, hey, Italia y Puerto Rico, dame una canción, hermanito. Por las calles.